Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati a questa ennesima puntata di Fuori di Noi, la seconda dell'edizione 2011 e 2012. Ai microfoni Christian, ahimè, senza la nostra Betta, che è per noi, per nostro conto, appunto inviata in qualche oratorio e quindi la risentiremo nelle prossime settimane. Fuori di Noi è una trasmissione che si occupa di oratori, di circoli, che fanno parte della grande famiglia di Noi Associazione, che ad oggi conta più di 1000 oratori sparsi in tutta Italia e circa 250.000 tesserati tra adulti e ragazzi. Per partecipare a questa trasmissione, per mandarci alcuni suggerimenti, per mandarci appunto a raccontarci i progetti che ogni circolo oratorio della diocesi di Treviso, di Padova, di Venezia sta realizzando in questo periodo, basta mandare un'email a fuoridinoi@libero.it oppure appunto mandare un sms al numero 320 614 6964. È un'occasione questa di incontro, anche perché veramente potremo incontrarci all'interno di un oratorio, all'interno di un ambiente appunto Noi, dove appunto i nostri inviati verranno a intervistare i responsabili dell'oratorio, i frequentatori, per sentire proprio dalla viva voce di questi protagonisti cosa si svolge, cosa bolle in pentola all'interno di un oratorio oggi nel 2011. Ricordiamo che gli oratori Noi sono non soltanto appunto ambienti dove si può giocare, dove si può passare del tempo libero, ma anche delle associazioni di promozione sociale che possono ricevere il 5 per 1000, quindi un contributo, diciamo, che lo Stato eroga. Basta semplicemente appunto segnare nella propria dichiarazione di redditi la propria firma su associazione di promozione sociale e riportare il codice fiscale del vostro circolo oratorio Noi. Un mondo quindi ancora tutto da scoprire, un mondo potenzialmente creativo, fantasioso, ricco di iniziative che speriamo di settimana in settimana di raccontarvi. La scorsa settimana, tanto per ricordare, avevamo il presidente territoriale di Noi Treviso, Don Bernardo Marconato. Speriamo di avere appunto ai microfoni di Fuori di Noi nelle prossime settimane gli altri presidenti territoriali per raccontarci cosa ci si aspetta appunto dall'anno sociale che sta per iniziare il 2012, ma che si sta già presentando in questi mesi, e poi per sapere appunto come si festeggerà, perché questa è la cosa importante quest'anno, e verrà anche riportato nella nuovissima tessera che tutti i tesserati Noi avranno, come si festeggeranno i 10 anni di vita dell'associazione Noi. Questa è la cosa, diciamo, importante, questa è la ricorrenza, l'anniversario molto, molto importante che stiamo appunto per presentare, e cercheremo un po' anche di tracciare dei bilanci in 10 anni, cosa è riuscito a fare Noi e quali sono le prospettive per i prossimi 10 anni dell'associazione. Ma visto che parliamo di oratori, visto che parliamo di iniziative, visto che parliamo di tante belle attività, noi abbiamo subito uno dei responsabili dell'oratorio in diocesi di Treviso di Fossalta di Piave al microfono. Vediamo se c'è. Ciao Giannino, ci sei? Ciao, ciao, ci sono, Cristian. Ciao Giannino, innanzitutto grazie per appunto la tua disponibilità. Noi stiamo parlando appunto di tante belle attività che i nostri circoli oratori stanno mettendo in piedi. È iniziato da un mese e mezzo circa l'anno, diciamo, pastorale parrocchiale. Tutti gli oratori hanno il proprio, diciamo, programma inserito nel programma pastorale parrocchiale, ma sappiamo appunto che l'oratorio di cui fai parte e di cui sei uno dei responsabili, lo ricordiamo, come si chiama intanto? Circolo l'oratorio Casa Gioia, parrocchia di Fossalta di Piave. Allora, siamo a Fossalta di Piave, siamo nella diocesi di Treviso. Ecco, il tuo oratorio è impegnato in queste settimane, in questi, diciamo, fine settimana, in che cosa? In una rassegna teatrale, mi pare. Sì, è una rassegna teatrale iniziata tantissimi anni fa. Oltre al gioco, all'animazione e tante cose, abbiamo proposto delle attività teatrali per i ragazzi e per gli adulti. Ultimamente questa attività è finanziata col 5 per 1000. Sabato 26 novembre di questo mese ci sarà uno spettacolo importante che riguarderà i 150 anni dell'Unità d'Italia. È un spettacolo che fa vivere proprio la nostra storia, il nostro risorgimento. Si tratta di una famiglia napoletana, e una del nord e una del sud, che si trova a contatto con questa unità, e là ne avremo di tante delle belle. Sarà un bellissimo spettacolo. E quindi Giannino, praticamente mi dicevi innanzitutto che il tuo oratorio ha in dotazione, avete creato un teatro, e non è una cosa da poco, sì, con tanti posti. Sì, è una sala già attrezzata. Sì, abbiamo la fortuna di avere questa struttura, perché possiamo fare perché ogni oratorio agisce e fa in base alle proprie strutture che ha. Assolutamente sì, e in base poi anche al territorio. So che Fossalta di Piave, per quanto riguarda la rassegna, se l'aspettano, cioè aspettano il momento di poter partecipare, quindi c'è una tradizione, come dicevi tu, anche abbastanza invernale, collaudata. Durante il periodo invernale, perché non ci sono molteplici attività d'inverno. Ho capito. E queste, diciamo, compagnie, dove riesci a trovarle? Cioè l'esperienza che ti ha portato... Sabato scorso abbiamo avuto la compagnia di Dalle Stalle alle Stelle di Consiglio di Treviso. Sì. Che hanno presentato un loro spettacolo, Farfiò, c'erano 150 persone. È stata una bellissima serata. E poi abbiamo concluso anche con la castagnata tutti assieme. È stato un momento di dialogo tra di noi, ecco, sarebbe interessante magari anche non soltanto appunto presentare una rassegna teatrale come fate voi, ma potrebbe essere questa l'occasione per tanti circoli neonati, che siano anche di Padova, di Venezia, per poter vedere come allestire, quindi scambiarsi delle informazioni, perché io penso, adesso non so se tu sei d'accordo con me, ci sono tanti circoli che vorrebbero proporre una rassegna ma non sanno a chi indirizzarsi, cioè chi contattiamo, come facciamo. Bravo, e allora bravo. Diciamo che l'oratorio di Fossalta di Piave, che è nella diocesi di Treviso e fa parte del Noi Associazione, può avere dei contatti utili per tanti circoli, anche di Venezia, anche di Padova, per allestire magari non una rassegna così corposa come fate voi da diversi anni, ma magari qualche appuntamento. Appuntamento, sì. Perché il teatro, mi pare, Giannino, sia anche occasione di incontro tra generazioni. Bravo, bravo, perfetto. Abbiamo avuto 10 anni fa anche Tre Baselle, che Croci di Piave, moltissime parrocchie che animo, che hanno queste compagnie, abbiamo fatto. Molto bene. Allora Giannino, ti auguriamo, allora innanzitutto ricordiamo il prossimo appuntamento, sabato 26 novembre, con appunto una rappresentazione teatrale basata, diciamo, ricordando l'Unità d'Italia e i 150 anni che stiamo festeggiando. Fossalta di Piave, l'oratorio è vicino alla chiesa, Casa Gioia. Lo trovate, appunto, basta fare una piccola ricerca oppure contattare le segreterie territoriali. Sul sito là di i famosi 15 oratori. Molto bene, quindi si può trovare appunto anche, diciamo, attraverso il web, quindi basta semplicemente contattare, basta un po' vedere e poi partecipare, perché oltre a vedere appunto un bellissimo spettacolo si possono creare delle belle collaborazioni. Giannino, intanto ti ringraziamo, buon lavoro, se hai altre notizie, altri progetti che partono da Casa Gioia di Fossalta di Piava, mandaci appunto un'email oppure appunto contattici via telefono. Grazie Giannino. Mi aggiornerò di più. Grazie Cristian. Grazie Giannino. Bene, allora abbiamo salutato appunto il nostro responsabile Giannino Fasan. Sapete appunto che tante sono le iniziative che riguardano il teatro, anche per quanto riguarda il Noi territoriale. Il teatro è un'occasione di incontro di generazione e speriamo appunto che nascano tante belle collaborazioni. Adesso però, primo momento musicale, dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori Luca Carboni con Fare le valigie. Mi piacciono i tuoi occhi rossi col flash. Ascoltare un vecchio disco dei Crash, trovare un paese dentro ad una città, e navigare in questa dura realtà. Mi piace pensare a un secolo fa, che un'altra estate arriverà. Fare le valigie, sapere che si ripartirà. Insomma mi piace che anche l'estate passerà. Fare le valigie, sapere che si che va mi piace che un'altra estate arriverà. Fare le valigie, sapere che si ripartirà. Insomma mi piace che anche l'estate passerà. Fare le valigie, sapere che si e noi effettivamente abbiamo fatto un po' di valigie, sì, perché siamo già entrati in qualche oratorio, abbiamo già visitato gli ambienti, abbiamo già parlato con qualche responsabile. Tutti questi contributi appunto di settimana in settimana verranno messi in onda grazie anche alla consulenza della nostra regia e di Daici, che ci accompagna appunto in questo viaggio oratoriale. Noi l'abbiamo chiamato Oratour, cioè il viaggio all'interno degli oratori. È sempre bello conoscere, è sempre bello incontrare e soprattutto dare spazio e dare voce a queste persone che gratuitamente e volontariamente operano all'interno di questi importanti centri di aggregazione. E quindi per farlo cominciamo subito, perché proprio poche sere fa appunto abbiamo incontrato alcuni responsabili appunto di oratorio che stanno preparando, come vi dicevo all'inizio, la grande festa che noi Treviso sta allestendo per l'anno prossimo in occasione appunto dei 10 anni di Noi Associazione. E quindi ascoltiamo i primi contributi. Stiamo pensando e progettando la festa del Noi 2012, che ha già una data, il 15 di aprile, e la stanno progettando diversi oratori, tra i quali anche il circolo di Ospedaletto, e qua abbiamo anche un responsabile che si chiama? Dino Giamini. Ecco Dino, noi ci siamo già sentiti altre volte sempre per la trasmissione Fuori di Noi. So però che il tuo oratorio, oltre a partecipare diciamo a questa organizzazione, ripeto, per la festa del Noi Treviso del 15 di aprile 2012, ha portato avanti, ha realizzato, sta realizzando un grande progetto. Ce lo vuoi un po' raccontare? Sì, allora già dal 2010 siamo partiti con un progetto finanziato da un bando provinciale attraverso l'associazione di volontariato dell'Aves di Strana e i 5 Noi del Comune di Strana. Era un progetto di durata annuale che aveva come finalità lo start-up di nuovi gruppi di giovani con finalità da decidere. Ecco, su questo progetto abbiamo portato a casa diciamo una somma pari a circa 20.000 euro, sul quale sono stati attivati nel territorio del Comune di Strana 4 progetti. Diciamo i minori erano quelli un po' più classici, tipo torneo di calcetto, e un altro che aveva finalità di presentare quelle che sono le attività politica amministrativa locale. Altri due invece che hanno continuato anche quest'anno, che sono tuttora in corso, con un rinnovo sempre di bando provinciale di altri 9.000 euro, che invece hanno come obiettivo uno l'attivazione di una web radio totalmente gestita da giovani di circa 20 anni, e un altro che è un gruppo di ragazzi che sta portando avanti un progetto che si chiama Distart, che è focalizzato invece sulla presentazione e preparazione di mostre d'arte su tematiche che possono essere diverse dalla pittura o comunque artigianato manifatturiero, diciamo di singoli che vogliono un po' presentarsi su questo mondo. Ecco, questo progetto ha attivato nel territorio di Strana 79 adesioni di nuovi giovani che si sono associati e che non facevano parte di altri gruppi, quindi è stata proprio una nuova focalizzazione su questi obiettivi di gente che non faceva parte di gruppi. E l'obiettivo infatti era questo, quello del bando, quello di portare verso l'associazionismo giovani che prima non erano in nessun gruppo. Ci sono state diverse presentazioni pubbliche di questi gruppi, hanno avuto la possibilità di mettersi in evidenza, loro hanno avuto buoni riscontri, e adesso stiamo attendendo a quegli sviluppi per vedere se queste associazioni nuove, gruppetti che sono partiti, partono e camminano con le loro gambe. Benissimo, e abbiamo sentito due cose fondamentali secondo me, poi continuiamo appunto ad ascoltare. Uno, il circolo che partecipa a un progetto con le amministrazioni comunali e provinciali, quindi interagisce con dei referenti pubblici, molto importante. Secondo, è l'occasione per portare nell'associazionismo persone che prima non gravitavano in questo ambiente, quindi l'oratorio diventa punto di riferimento per creare nuove occasioni di volontariato e quindi sentirsi protagonisti facendo diciamo delle attività e dei progetti gratuitamente solo per il bene della comunità e del paese. Questo è molto importante, il circolo noi di Ospedaletto, ma continuiamo ad ascoltare. Gli anni scorsi ci avevi parlato anche di, non se mi ricordo bene, di un sito che il vostro circolo oratorio ha messo in piedi. Allora ti chiedo innanzitutto, questo sito viene costantemente aggiornato, questo sito serve veramente come mezzo di comunicazione e di informazione per tutti i vostri soci o i frequentatori del circolo noi di Ospedaletto? Allora, il sito è all'indirizzo www.noiospedaletto.it e noi, ecco, anche come circolo recente, ci siamo subito orientati verso un'informazione, verso i tesserati, orientata verso i canali più tecnologicamente più moderni, quindi usiamo molto la mailing list, usiamo molto il sito e usiamo anche gli sms nei casi un po' più mirati. Nel sito si trovano i contenuti sia passati, quindi le esperienze precedenti, e sia quelle che sono in fase di preparazione e di prossima programmazione. Ecco, qui dentro abbiamo un po' tutte le informazioni e i tesserati che sono interessati ovviamente vanno a trovarsi le cose che possono essere più interessanti per loro. Ecco, oltre a questo lì rimane traccia anche di tutte le cose che sono state fatte rilevanti anche negli anni scorsi. In particolare, ecco, ricordo che con il 5 per 1000 l'anno scorso, 2010, quindi abbiamo finanziato un corso sulla genitorialità coordinato dal nostro ospedaletto, però con il supporto di una cooperativa esterna che era quella di Il Sestante di Treviso, e rivolto a tutti i genitori che avevano figli nella fascia d'età scuola primaria e secondaria. Ha avuto una durata di 6 lezioni, sono state rilasciate delle dispense e tutti hanno colto positivamente questa esperienza e hanno addirittura detto di riproporla negli anni successivi. Concludiamo allora, Dino, questo breve incontro appunto con la realtà di Ospedaletto. Ripeto, tu fai parte anche di questo comitato insieme con l'Oratorio San Giorgio di Quinto, che sta organizzando la festa 2012 del Noi, che compirà appunto 10 anni il prossimo anno. Perché venire? Perché un circolo dovrebbe partecipare a questa festa territoriale? È un'occasione sicuramente importante di coesione tra i circoli, che serve soprattutto, oltre al fatto di festeggiare questa associazione e gli obiettivi di questa associazione, è anche quello di favorire sinergie e scambi tra circoli in questo contesto, soprattutto oggi in cui abbiamo molto bisogno di scambiarci, di sostenerci a vicenda. Grazie Dino e buon lavoro a Ospedaletto. Grazie a te. Altre due cose importanti prima del prossimo brano musicale, ed è questa: ciascun circolo oratorio, per comunicare con i propri soci e con le proprie comunità, usa un sito internet. Tante volte può essere costoso, ma io credo appunto che sia oggi essenziale far vedere a tutti, diciamo a tutte le realtà amministrative e non amministrative, cosa fa un oratorio, cosa può fare un circolo noi. E quindi adesso passiamo subito ad un nuovo brano musicale pimpante, simpatico, Avril Lavigne con What the Hell. You say that I'm messing with your head. E con questa, diciamo, canzone noi stiamo concludendo la seconda puntata di quest'anno per quanto riguarda Fuori di Noi. Abbiamo fatto un piccolo viaggio, siamo andati nella zona di Castelfranco Veneto con il circo di Ospedaletto e Dino Gemin, che ringraziamo. Siamo passati però all'inizio nella zona del Piave con Fossalta di Piave, Casa Gioia e Giannino Fasan, che ci parlava appunto della rassegna teatrale che da diversi anni sta avendo successo all'interno della comunità di Fossalta di Piave. Ma sono tantissime altre le realtà che vorremmo appunto raccontare in questa pillola, diciamo, di oratorio che va in onda appunto sulle frequenze di Blu Radio Veneto ogni sabato alle 14 e alla domenica alle 12:30. Ma per chi non potesse diciamo ascoltarle appunto in diretta, può tranquillamente cliccare sul sito www.bluradioveneto.it e riascoltare, diciamo, la puntata sul podcast dei programmi. Vi ricordiamo appunto l'email a cui mandare progetti, iniziative oppure la volontà di essere protagonisti di Fuori di Noi. L'email è fuoridinoi@libero.it e un sms può essere sufficiente con il proprio nome e diciamo appunto la località da dove voi ci state chiamando, mandando un sms al 320-614-6964. Concludo, diciamo, questa seconda puntata con una frase che mi piace, che ricordo spesso, di Don Lorenzo Milani, che diceva: è inutile avere le mani pulite se le teniamo in tasca. Ecco che i nostri volontari, i nostri responsabili, gli animatori di oratorio, queste mani non le stanno tenendo in tasca, le mettono a servizio di tante belle iniziative, progetti a favore delle comunità, a favore dei giovani, degli adulti e degli anziani. E noi siamo qui in questa radio e con questo programma per in qualche maniera ricordare che per ciascuno di voi che ci state ascoltando c'è uno spazio all'interno della vostra comunità per poter dare il meglio di voi stessi. L'oratorio è una buona risposta, ancora oggi nel 2011. E quindi vi saluto, ringrazio la regia di Eddie Daici, ringrazio appunto la Beta, anche se non è qui presente perché sta lavorando per noi, e ci risentiamo la prossima settimana sempre su queste frequenze con Fuori di Noi, sabato, ricordo, sempre alle ore 14 e domenica alle 12:30. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.